entero. Ya no quedan rastros de ti, solo recuerdos. Si todo fuera más simple, no hubiéramos nacido. Y yo no te hubiera querido como lo hice. Ay, qué tortura esta. Me tienes sin dormir. Y aún no me quedan fuerzas para no pensar en ti. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Était plus simple, nous ne serions jamais nés. Et moi, je ne t'aurais pas aimé comme je l'ai fait. Les fleurs du jardin ont séché, les printemps nous a quittés. Le soleil est caché dans mon sac, reviens, je t'attends. Ay, que tortura esta, me tiene si. Quedan fuerzas para no pensar en ti. La la la la. Nuovamente Jazz Live in diretta, 12.02 minuti, seconda parte, prima dell'introduzione a questa rassegna per l'incipit di Alfredo. Aggiungevo per ascoltatrici e ascoltatori, chi ha idea che il jazz sia una musica monocorde, noi smentiamo regolarmente. Sentite quest'area, lei è Carla Masa, sì, grande, bravissima cantante, questa è cubana con madre cilena, quindi abbraccia un po' tutta una cultura latinoamericana, come sentiamo in questo brano. Bellissimo. Anche dai sapori brasilero quasi. Sì, sì, no, ma infatti mettere insieme queste due, ispanico e brasilero, è motivo di grande fascino. E ci riporta proprio a questa atmosfera, le vacanze estiva al mare. E andiamo dal 20 luglio al 28 al Fano by Jazz Sea, che è un appuntamento marchigiano ormai tradizionalissimo, perché è ovviamente bella musica, ma anche una situazione molto ospitale, come sentiremo poi anche nelle voci che sentiremo, e con delle musiche a proposito di tutto uguale jazz, completamente diverso dall'altra, perché questa era Carla Masa. Adesso sentiamo invece uno dei protagonisti, che sarà un pianista armeno di grandissime capacità, Tigran Amasyan, che molto spesso si cimenta anche su temi religiosi folclorici. Qui lo sentiamo in un brano piano solo, come sentirà anche a Fano in questi giorni di luglio. Sentiamo e poi cominciamo con le voci. Grazie dell'invito. Dunque, allora si ripete questo festival che ormai in Fano è una bella tradizione. Beh, diciamo che siamo arrivati al 32esimo anno di attività, abbiamo superato momenti difficili come tutti, come la pandemia, anche questi momenti che sono abbastanza complicati, però insomma noi resistiamo e quindi avremo ancora un festival che si presenta con 9 giorni, con 43 concerti, di quali 35 sono poi gratuiti, ci saranno più di 150 musicisti e i concerti saranno dislocati in 8 location diverse che sono molto importanti, suggestivi della città di Fano, come la 400esca Rocca Malatestiana, oppure l'Arco d'Augusto di epoca romana, la 300esca Chiesa di San Francesco e tanti altri luoghi, fino ad arrivare poi al Parco Golina del Furlo, dove si concluderà poi la classica festa finale, insomma, in qualche esatto, questo sì, ecco, esatto. Chi frequenta il Festival di Fano sa dell'accoglienza di questo luogo, in particolare questa sorta di giardino che è un'anteprima alla Rocca Malatestiana. Sì, la Corte Malatestiana è ormai diventata la sede ufficiale del main stage, il cosiddetto main stage, dove poi presenteremo gli artisti che sono quelli più importanti, quelli a livello internazionale. E comunque segnalo che il festival dal punto di vista artistico è formato in 5 sezioni a cui teniamo molto, che mai è un format che si riproduce. Questa del main stage alla Rocca Malatestiana è senz'altro il punto più importante, ma segnalo che c'è anche poi l'Orient Stage, che è uno spazio destinato ai giovani, Cosmic Journey, che è un altro spazio dedicato ai DJ che mescolano il jazz con l'elettronica, ma che l'Exodus Stage, che è un ciclo di solo concert, e lo stesso Live in the City. Insomma, queste 5 sezioni sono quelle che ormai determinano il format del festival. Diciamo che andare per festival è molto bello, perché oltre ai nomi celebrati che più ti aspetti, anche le sorprese, tu citavi concerto solo, che hanno dato grandi soddisfazioni. Ma veniamo allora all'impronta funk. Ma diciamo che sono due, uno inizio e uno finale. All'inizio avremo questo trio svizzero, sto parlando del 20 luglio, tra l'altro in un posto molto suggestivo che è l'Arco d'Augusto, praticamente è la porta romana che si accede alla città di Fano, al centro storico, e qui avremo questo trio svizzero, appunto, che si chiama The Next Movement. Sono un gruppo che sta ridisegnando un po' le coordinate di un nuovo funk, di una fusione tra le varie influenze. Sono ben evidenti gli echi di James Brown, Jimi Hendrix, Miles Davis, Prince, insomma tutto quel mondo a cui fanno riferimento. Questo è in apertura del festival. E poi invece un altro gruppo, questa volta francese, che chiuderà il festival il 28 di luglio, un altro gruppo che intende poi rivisitare il mitico jazz funk degli anni 70, però con degli echi più hip hop, house e no soul. Insomma, anche qui ritroviamo delle influenze di James Brown, Prince, ma anche delle icone dell'hip hop come The Roots. Insomma, ecco, questi sono i mondi funk che saranno presenti all'interno del festival. Allora anche Alfredo è un essere umano, ma senti che brano che ha messo in playlist. Nowhere, che poi di cui la voce che abbiamo sentito, lui è Adriano Pedini, che è l'art director, la voce storica del Fano by Jazzy, che ringraziamo per la gentilezza e l'intervista che ci ha concesso. E siamo partiti non a caso dalla logistica, perché la logistica a Fano è molto importante, perché dicevo inizialmente ci stai bene a Fano. Poi sì, a parte la mattina vai in spiaggia a fare il bagno, quindi poi mangi il pesce, e che non guasta nel mondo del... Fai il riposino, poi concerto. Alle 6, la mica sera, male, alle 7 e poi anche a mezzanotte se vuoi. Nowhere. Allora, Nowhere, adesso non diciamo le date perché c'è tutto su internet, quindi non stiamo e poi sarà tra un po', eh? Sì, poi siamo in luglio. Genevieve Artedì alla voce, bravissima. Luis Cole alla batteria, Peter 5000 al basso, Tom Gill alla chitarra, Iride Shentones alle tastiere, Isis Giraldo ancora alle tastiere. Quindi questo gruppo non so come definire, anzi lo definirà bene Armando Pedini nella parte seconda dell'intervista. Aspetto più world, più etnico, sicuramente possiamo citare uno dei più grandi, a mio avviso, pianisti che c'è nel panorama del jazz internazionale. Sto parlando di Tigran Amasyan, questo pianista armeno, già altre volte è stato presente al festival e sinceramente ogni volta che posso voglio presentarlo perché è veramente un personaggio di una caratura artistica internazionale. La sua è una fortunata miscela di sonorità jazz fusion, ma anche di alchimie elettroniche, un po' con questi poi profumi medio orientali. Insomma, c'è un mondo incredibile che poi è tutto racchiuso in questo progetto che presenterà, che si chiama The Paul Within. Le altre due segnalazioni che voglio fare su questo mondo sempre un po' latino, un po' su questo mondo world, sono la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza, che si sta imponendo come uno dei nomi nuovi della scena world, e l'altro è questo pianista spagnolo Daniel García, senz'altro una delle voci più emozionanti e influenti della nuova generazione del jazz spagnolo. Ecco, queste diciamo sono un po' gli artisti che ruotano intorno all'ambito jazz ma anche world. Il 26 luglio poi troviamo una grande gloria con la rinnovata formazione Bad Plus con Speed, Mandel, Anderson, The King. Sì, questa hai detto bene, i Bad Plus, che sono ormai anche loro sono stati presenti nel nostro festival già da tempo, ma vengono con questa formazione rinnovata, un gruppo a cui tengo tantissimo perché sono sicuramente un gruppo che rappresenta molto bene quello che è l'espressività jazzistica contemporanea, e si presentano appunto con questa nuova formazione dove spicca un po' il sassofonista Chris Speed e anche il chitarrista Ben Bonder. Insomma, sarà un gruppo che darà soddisfazione a chi sarà lì per ascoltarle. Il pomeriggio abbiamo Exodus nella Pinacoteca San Domenico, bellissimo scenario, con musicisti solo tra cui una vecchia conoscenza bolognese, Carlo Maver. Exodus, come dicevi, è un momento molto particolare in cui dei musicisti in solo si mettono in gioco proprio per mettere un po' l'attenzione su questo problema della migrazione. Ma presenterà una cosa tutta completamente acustica, e questo ci tiene molto a dirlo. Sarà un momento particolare anche perché lui è un viaggiatore incallito e quindi porta con sé anche tutte esperienze che si è formato nel giro dei suoi anni in giro per il mondo. Nowhere, un gruppo che di quelli veramente crossing, perché leggo nella presentazione jazz, dubstep, rock, elettronica ed altro ancora. Che sound dobbiamo aspettarci? Guarda, i Nowhere sono una di queste nuove formazioni che sono un po' circoscritte in quest'ambito, chiamiamolo funk pop un po' futuristico. Sicuramente l'ispiratore di questo duo, perché nasce come un duo, il batterista pluristrumentista Luis Cole, è senz'altro un personaggio molto istrionico che si destreggia molto bene anche sotto l'aspetto della produzione dei video, e insieme al cantante Genevieve Artedì hanno formato questo duo e si presentano a Fano invece con questo quartetto che sicuramente farà scintille, perché ci aspettiamo non solo del jazz ma anche del dubstep, del rock, dell'elettronica. Insomma, è un sound sicuramente unico, un sound che è molto connesso anche con le dinamiche contemporanee. I Nowhere abbiamo prima ascoltati, questi invece sono i Bad Plus. a rischio di intromettermi in questo festival, perché tra il dubstep, appunto, stavo per interrompere la presentazione prima di Nowhere, le sonorità dubstep composte da queste ritmiche spezzate, molto frenetiche, ma allo stesso tempo con una armonia di ricerca fra di loro che strizza l'occhio al funky e anche alla maniera fruibile, moderna, elettronica, qui fatto di grande gusto. Travisato molte volte come sonorità unicamente per club, mentre invece ha anche una capacità di proposta d'ascolto. Certamente col brano che abbiamo ascoltato ne è una talentuosa, per così dire, dimostrazione. Qua Bad Plus. È un pezzo meraviglioso. Devo dire, Bad Plus l'abbiamo visto diverse volte nell'antica formazione con Iverson al pianoforte, no? Anderson e Dave King. Poi Iverson è uscito e il Bad Plus hanno... l'abbiamo sentito in trio con bellissimo, con Joshua Redman, concerti anche favolosi, anche con Mark Turner, concerti importanti. Poi Iverson è andato via e per un po' i Bad Plus, pur rimanendo a un certo livello, hanno cercato nuove identità ma senza riuscire. Invece con Mulder alla chitarra e Chris Pied al sassofono hanno cambiato completamente universo, quindi sì, hanno tagliato con... e però il livello è questo qua. Che hanno anticipato tante cose che poi sono andate così rilevanti nel panorama jazz italiano. Per quanto riguarda i giovani, noi abbiamo all'interno del Jazz Village che ho riservato una sezione, destiniamo proprio a queste che sono le nuove proposte, perché ricordiamo che il jazz negli ultimi anni, il jazz italiano sta sfornando molte proposte giovani, e quindi noi le raccogliamo, cerchiamo di dargli un po' di visibilità facendo in modo che poi sia anche il trampolino di lancio anche per altre manifestazioni. Insomma, è un momento importante per i giovani, ma non solo come autori o come musicisti, ma è anche un momento importante per attirare un po' pubblico giovane, perché poi il problema che abbiamo tutti noi del festival è anche quello di avere pubblico, di avere il ricambio generazionale, e quindi la presenza dei giovani musicisti potrebbe in qualche misura attirare anche un pubblico più giovane. E non è casuale che anche sono concerti chiaramente gratuiti per un pubblico ampio e in uno spazio veramente tra virgolette liberato. Dico una cosa che può sembrare sciocca, invece dà l'idea di una filosofia: l'acqua è gratis. Sai, questa cosa in un mondo si fa pagare anche la cannuccia, credo che dimostri un atteggiamento diverso rispetto al rapporto consumo-cultura. Sì, guarda, stai toccando uno dei punti che per noi sono molto rappresentativi. Noi abbiamo creato all'interno del festival, di fronte alla Rocca Manatesiano, uno spazio che si chiama Green Jazz Village, che poi praticamente è il cuore pulsante del festival. In questo Green Jazz Village dal 2017 siamo soliti utilizzare un po' tutti quelli che sono i criteri ambientali minimi, cioè che sono tutte le azioni per un festival sostenibile, e tra l'altro siamo stati premiati nel 2020 come evento più sostenibile a livello italiano dalla Fondazione Ecosistemi. E questi criteri ambientali minimi sono dei criteri che poi sono oggi diventati legge, per cui tutti gli eventi in qualche misura dovranno confrontarsi, e praticamente sono delle buone pratiche, per far sì che gli eventi siano una specie di vetrina, una specie di invito al pubblico a comportarsi in maniera più adeguata di fronte ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti che stiamo vivendo. Ha citato quella dell'acqua, è una delle tante azioni, quindi mettiamo a disposizione un dispenser dell'acqua, sia liscia ma anche gasata, e queste sono delle particolarità delle note di colore, però questa è una, ma poi c'è anche la questione della mobilità sostenibile. Invitiamo tutti i partecipanti a venire al festival o con la bicicletta o utilizzando mezzi pubblici. Abbiamo il risparmio energetico con dei pannelli fotovoltaici per illuminare il Jazz Village, abbiamo uno spazio dedicato ai bambini, questo famoso campus musicale, abbiamo un'area C, c'è il beverage, c'è il food, insomma è un villaggio che si vive dal mattino fino a tarda notte, in cui le tante attività coniugate con le buone pratiche danno la sensazione di un festival che ha preso una strada ben precisa, che è quella di essere un festival sostenibile. Ci saranno tante altre sorprese, perché non abbiamo citato tutte le attività collaterali, ne cito una, quella del concerto all'alba, oppure quella del Fano Jazz Bike the Sea, che è questo corteo di ciclisti che percorrono le strade di Fano con i musicisti che suonano, insomma tante altre attività che vale la pena di scoprire, anche perché il festival può coinvolge tutta la città, e quindi chi viene a Fano oltre al mare potrà avere la possibilità anche di assistere a concerti e vivere il Jazz Village come l'intendiamo noi. One, two, three, let's sing everybody. Keep it on two step all the night. 5, 6, 7, 8 to the right. Gathering on, no time for rest. Sisters, brothers to the left. Keep it on two step all the night. 5, 6, 7, 8 to the right. Gathering on, no time for rest. Sisters, brothers to listen. Keep it on two step all the night. 5, 6, 7, 8 to the right. Gathering on. È una festa, mi permetto di aggiungere anche al Jazz Live. Sì, festa. Perché il concerto di chiusura alla Gola del Furlo, aperto a tutti, proprio una festa di conclusione, cioè come sai quando si chiude col party, i Lehman Brothers, che non c'entra con i ladroni, gruppo che suona molto la James Brown. Sì, e quindi c'era divertirsi a ballare. Con questo direi che siamo verso la fine. Sì, siamo arrivati alla conclusione, 12:24. Oh, finisce Jazz Live, ma riprenderà ottobre. Sì, riprenderà ottobre, e poi non dimenticate Sal Peanuts e il Breakfast Club, certo. Altri suoni che continueranno a dare notizie sul jazz seguendo concerti durante il periodo estivo. Intanto, speriamo di non avervi annoiato troppo. Beh, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona estate e un buon jazz. Ciao a tutti. Appuntamento alle prossime puntate. Ciao a tutte, ciao a tutti.